Buonasera, sono Federica. Vorrei sapere dal candidato sindaco Gianfranco Pasquino in che modo intende rilanciare l'economia di questa città. Grazie. Buongiorno Federica. Credo che sia importante sottolineare che abbiamo un problema economico che naturalmente non riguarda soltanto la città di Bologna, ma che riguarda in tutto il paese e soprattutto riguarda alcune zone del paese. In un certo senso noi siamo da un lato molto avvantaggiati perché questa è una zona comunque ad alta occupazione, comunque con un'alta percentuale di occupate che sono donne e tutto questo serve naturalmente in maniera significativa allo sviluppo della città, e però proprio perché siamo una zona ad alta occupazione e per di più con esportazioni che riguardano soprattutto altri paesi dell'Europa nei quali la crisi nel frattempo sta arrivando, dovremmo preoccuparci. Non abbiamo naturalmente una soluzione preconfezionata perché molte delle politiche economiche necessarie debbono essere nazionali e probabilmente debbono anche essere europee, e tuttavia qualcosa si può fare. E cioè questo è il classico esempio nel quale è possibile trovare delle energie di vario genere che vengano ovviamente dalle associazioni imprenditoriali, che vengono ovviamente dalle associazioni dei commercianti e ovviamente anche dai sindacati. Al sindaco e ai suoi assessori spetta di incoraggiare alcune di queste attività che mettono insieme energie diverse, e spetta il compito di indirizzarle nella direzione migliore e naturalmente spetta anche il compito di trovare quelli che si chiamano abitualmente gli ammortizzatori sociali. Tutto questo può essere fatto nel momento in cui ci si prende davvero in seria considerazione come cittadini che vogliono collaborare, perché sanno che il bene di ciascuno alla fine può produrre il bene di tutti. E interventi mirati sono necessari, ma insisto, attraverso la collaborazione delle varie associazioni. Grazie.